Dante, però la modulazione è scarsina. Luca, vai tu. Sì, è satura. Io adesso lo capisco meglio di prima, però è satura, una bella modulazione. Sta migliorando tantissimo, forse c'è troppo ingresso. Sì. Adesso ha migliorato tantissimo, ma sembra proprio che abbi troppo ingresso per l'amplificatore, capito? Una saturazione del genere. Però adesso è molto più chiara rispetto al primo passaggio che hai fatto, capito? Cioè riesco a capirti, è satura ma si capisce. Gianni, come lo senti tu a Claudio? Ma doppio rubo è già prendere ultimi. Sì, qua ha migliorato, confermo anch'io, sta già migliorando. Sì, ha migliorato tantissimo, però prima non riuscivo a capirlo. Beh, stavo usando quella ieri usciva bene, oggi non esce bene, come mai? No, ma in linea di massima sta andando bene, è leggermente satura, ma non è abbastanza comprensibile rispetto al passaggio che hai fatto prima, capito? Il primo passaggio proprio non ho capito neanche che ritmo, ma ho detto Gianni. Capito, adesso invece arrivi bene, diciamo. Comprensibilissima la modulazione, potresti fare di più, ma comunque abbastanza comprensibile, va bene. Segnale 9.15, radio 9.5, comunque 4, abbastanza comprensibile. Vai Luca. Vai Marco, che Gianni sta facendo l'ordine del GT Alfa Romeo. No, stavo lavorando a un messaggio, già sono qua. Lascia che lì già c'è radio, mi pare una metà paravattola, ma se un quadro in banda serio non ti bastano 500-600 euro a comprare. 152 euro più le spese sono 180, 182 euro, ma no, pennante, a parte fatemi piccolino, da un giocattolo, ma più grande del 701 è che ho io veicolare mi banda che dice che qua è banda. Riprende e fai girare per Mugos, senti un po' com'è che arriva adesso. Sì, l'ho sentito che arriva meglio, dai, adesso senza ombra di dubbio arriva meglio, ma anche prima io l'ho capito. Avanti, io da Ruggito, facci sognare. No, a me arrivi bene adesso, dai. Prima eri un po' cupo, ma adesso va benissimo, dai. Io ti sto ascoltando perfettamente. Non lo so, forse per Claudio sei troppo vicino, non lo so, il segnale è troppo alto e magari anche per questo. Avanti Gianfranco, se sei rientrato. Sì, sono rientrato, mi hanno bloccato con una chiamata. Cosa volevo dire? No, Claudio, già va benino, dai, è un clone dal IAESU, però insomma, non... Come tutti gli IAESU non puoi pretendere grandi cose, perché anche io trovo qua no, gli IAESU che è il secondo in ordine di costo, quello digitale, ma ce l'ho solo perché lo uso come così, non ce l'ho butto perché c'è il CF4, perché sennò ce l'avrei già buttato, perché raccoglie splatter da tutte le parti, guarda, ed è gli IAESU, è originale, costa 450, tanto. Per carità. Marco, sei libero? Se ti vuoi fidanzare, boh, ci mettiamo d'accordo. Sì, già sono libero. Dimmi tutto, dai. Oramai sono tutto vecchio, tutto arrugginito. Sono lì per il secondo canale. se ti puoi spostare un attimino sul 15, facciamo il 15 che è abbastanza distante. Che devo fare una prova, mi devi dare un parere. Ok, dai, questa è greca 15, dai, a da voi, vai Claudio. Ehi, va bene, siamo qua, dai. Avanti Muros. Poi al prossimo passaggio cambia vediamo le tonalità. A tirarle su a vedere se cambia qualcosa. Riprendi il doppio rumo. Ehi, un attimino, non so cosa dire, dai, ho 5 minuti solo che sto rispondendo a un amico al telefono, e poi entro dopo. Va bene, riprendi qua, a quanto ce l'hai mai detto, Tony? Voglio vedere quello, infatti. Tira su il Mikey Game il volume del microfono. Lascia Tony a 3. Prova a tirare sul volume del microfono. No, porta il Mikey Game del microfono a 5. Vabbè, metti Tony a 2. Cazzo qua. Non avevo dubbi, stavi strozzando la modulazione, praticamente avevi i toni troppo alti e il volume troppo basso, così è perfetta, così sì che va bene. No, adesso va bene alla grande. Sì, ti ho sentito, io ero sul 20 che stavo chiacchierando con Luca. Sì, vi ho sentito su 10. No, adesso arrivi bene, poco fa non mi piaceva la modulazione, era troppo stretta. Adesso invece c'è le tonalità più acute, capito? E viaggia molto molto meglio. Sì, ci siamo sentiti spesso mentre era con la zona di Sintino, capito? Quando era in pausa ci sentivamo al telefono, facevo compagnia, il tempo della pausa ci facevamo due chiacchiere al telefono, so se te l'ho detto. Lo so, molto bene. Meglio così, intanto la fermo, quindi ne ha approfittato, ha fatto benissimo. Sì, mi ha detto doveva rinnovare le CQC, però non sapevo che lo stava già rinnovando, capito? Vediamo un po', che c'è rimasto qua? Marco, Gianfranco, siete rientrati? No, Gianni è al telefono, Luca? No, Lucariello, cazzo, tutti i Parigi, va bene. E anch'io non è che sto facendo molta radio, la verità. Poca roba anche io, qualche volta così. Due chiacchiere in PMR, oppure una volta facevo due chiacchiere nel 20. Due provette, però non ce ne voglio. Struttura di balli, io gli ho tolto tutto dal tetto con Luca. Ho fatto pulizia totale, tutte le direttive a terra, tutte conservate. E basta, la Mantova è una bibanda, boh, finiti, giù, chi se no passa l'inverno dell'anno scorso, con queste preoccupazioni dei fulmini, casini, troppo ferro c'era, e allora ne ho tolto tutto qua, e magari dopo, ma io già c'ho la potenza per arrivare lì, io c'ho tutto l'equipaggio che ho sempre, capito, e arrivo sino a Porto Torres, Albero. Quindi mi dovresti sentire anche tu, evidentemente è come zona, perché tu sei in basso e non hai antenna esterna, quindi da dentro casa col domino sicuramente non mi senti, ma se metti un'antenna esterna arrivi benissimo anche tu, capito? Perché con le antenne in gomma dentro Sassari va bene, ma fuori da Sassari non senti niente, assolutamente, ci vuole una tua antenna piccolina, agganciata lì a quella del baracchino e vedi che già ascolti, perlomeno a me mi ascolti bene. No, non va bene quello. Un'antenna piccolina devi fare, da un metro e cinquanta, capito? Ci sono anche in vendita, questa non è una stronzata, proprio per PMR oppure per UHF, quelle X30, quelle X50, quelle piccoline della Daimon, le fa la Fayette, le fa un sacco la Midland, le fa... Questa non è una tronzata, una trentina di euro, 30, 35, arrivano sino a 50, 60 euro. E ne fai una staffa, la metti sotto l'antenna del baracchino, anche con un cavo RG58 normale, e vedrai che ascolti bene, perlomeno a me mi ascolti benissimo sicuramente, perché arrivo all'albero. E poi puoi parlare anche tu con noi, capito? No, molto molto strano. Molto molto strano, perché il PMR è poi una frequenza un po' balorda, 446, se non hai l'antenna buona è un casino, capito? È un casino. No, io ho l'antenna sul tetto, poi sono davanti a te, quindi dovresti arrivare benissimo, ti ripeto, sento tutti e mi sentono tutti, solo che col gommino da lì, da dentro casa, sei troppo basso, capito? E quindi non ce la fa. Non sento, tu immaginati che io in PMR non sento a Gianni doppio rume da casa sua col gommino. Non lo sento, ed è dentro Sassari. Nonostante io abbia l'antenna esterna in alto, non lo sento, perché non ce la fa ad arrivare da me, capito? È una frequenza balorda. Andiamo! Oh, sono rientrato. Bobo. C'è qualcosa? già, c'è qualcuno che sta parlando. Sì. Si conferma. Va bene, va bene. Quando vuoi. Ma sono sicuro che se metti un'antennina piccolina da me arrivi benissimo, ma anche dagli altri. Anche dagli altri. Non c'è ombra di dubbio. Vediamo un po' se è rientrato Marco. Marco? Luca? Sì, mi sono appena in pigiamato, lavato in pigiamato. Lavato in pigiamato, ti sì. Ma non ci arrivi tu a muro, so. Ma se ti dica, se non arrivo da te, arrivo a muro. Hai ragione. Cazzo, per poco arrivi da me, quindi non arrivi manco a muro. Se non lo senti a Luca, no? Ma è a casa di tua figlia? No, no, è a casa della donna. La sua carissima compagna, sino a quando non mette l'antenna lì, perché la posizione lì è buona. Capito? Quando lo senti sta parlando da casa sua, da casa della mamma, lì c'ha tutto. Lì c'è un'antenna di fortuna e quindi arriva solo dentro sasso, mi arriva quasi 9 a me, 8, abbondante, quindi a te no, non arriva. Ah, c'era Flipper, che fine ha fatto? Flipper! Andiamo! Lo senti a chiodo, sì? Sì, a voglia. Vai, riprendi. E lui che non sente a me. Oh, vediamo un po', aumentando ancora un po'. Io dammi quella antenna, 50 euro, sto appena adesso, io, smontala. Ricchio! Aspetta, sta parlando lui. Certo, mettiti l'antenna, diglielo qua. Questo succede quando uno non sente, è vicino, si sovramodula. Ha detto che ci arrivi lui, 9:20 arrivi a muro, sulla mazza di Nevaria. Addirittura! Oh, mi assento, ci sentiamo dopo la telefonata, no? C'è Luca, l'altro Luca che non ti sente, che ci mette a parlare, vabbè qua passi tu, normale. Sei 9:20 anche tu qua, quindi non c'è problema. Oh, yeah. E quindi babbo dov'è? All'autoscuola è andato. E vabbè, ma era una stronzata, boh. Farà controllare al babbo. Sì, quando è così sicuramente c'è qualche componente da sostituire. Boh. E vabbè, è una stronzata, no? Non ci vuole niente a farlo quel lavoro. Avanti, Flipper. Sì, un attimo, stavo mandando un messaggio qua. Vabbè, sono contento che arrivo lì comunque. C'è picchi di modulazione molto alti. Qui c'è il picchio alto. Picchio bello. Oia, riprendi qua. Di qualcosa. Io sto cercando di attaccare questo cazzo di colonnina esterna, non trovo il buco dietro. Grave. Ecco. Registrato il break. Ok. No, va bene. Lascia tutto così e non c'è nessun problema. Poi quello lì magari lo fai controllare, vedo un po' se è tutto a posto. Avanti, Black. Ok, grazie Claudio per il Black, buonasera a tutti. Sì, vi stavo ascoltando da un po', già ho sentito che c'era un bel gruppo stasera, infatti sono provato a entrare ma sembrano che siano scomparsi tutti. Ciao ragazzi. Ah, mi è Giannangelo. Allora, compiti fatti via. Li sto facendo mentre sto parlando. Concentra. Matematica soprattutto. Poi. Prima non vorrei poi piacere. Ricordati questo. Cavagaba, va bene. Riprendi Claudio, oggi ho fatto il padre. Claudio chi? Claudio tu. A lui lo chiamo anche da Ruggini. Ok. Va bene, ciao anche Riccardo, ben entrato. Cosa stavo dicendo? Hai provato qua dove c'è praticamente il modulatore, c'è lì il problema. Quella lì, sì. Perché mi ricordo che l'aveva fatto anche a me quell'intec lì, quell'effetto. E aveva un problema proprio sulla scheda audio, sul modulatore. Può darsi sì anche quello lì che abbia troppa potenza e quindi il problema può essere lì. Però fargliela controllare da lì, perché a me mi aveva fatto un difetto e tramite appunto un tecnico aveva trovato subito il problema ed era proprio lì sulla parte della scheda audio, ho capito. Va bene, riprendi Gianni dopo il rumore, fai girare. E vabbè, adesso va bene comunque, dai. È la radio che non è molto limpida, dai. Però già diciamo accettabile, già accettabile. E magari proprio quello che è troppo tirato, perché anche io se lo usi con lineare è meglio sempre metterla a 5 watt. Quando lo metti a 5 watt poi puoi usare anche il lineare tranquillamente. Invece se c'ha troppi watt d'entrata ti dà quel problema lì. Fai la prova, io siamo qua per questo, prova. Quello che stai parlando adesso, voglio vedere se si chiarifica la voce. Ehi, vediamo un po' se è rientrato Marco Condor con Gianfranco. Rientrati siete? Nuda. Va bene. Va bene. Ci hanno lasciato su. Gappa. Vabbè. Io mi ero attaccato questo qua perché ieri ho fatto le connessioni. Stavo parlando di colpo, vado a prendere la portante. Niente da fare, Niente da fare, ma c'ha tutti i piedini interni, quelli dove si saldano i fili, che si muovono, si girano, si fanno. Era da cambiare lo spirito, ma non ce l'avevo, E bene o male, li ho fatti così, dai, li ho tagliati, rifatti di nuovo, risaldati. E sembra che vada bene adesso. Questa qui è la radio così di fortuna, diciamo, quella che uso solitamente per ultima. Sono qua già, stavo attaccando la colonnina esterna e quindi ho sganciato il volume. Ah, stavo parlando con Muro. No, ti ho sentito, ma sono qua. Non ti hanno lasciato solo, sono qua. Stavo attaccando la colonnina esterna alla tappa che l'avevo sganciata per pulire l'altro giorno, mi sono dimenticato di agganciare. Però io ce l'ho attaccata al coso, la colonnina esterna ce l'ho attaccata al 980. E stavano dicendo che l'S9, stavo leggendo un forum, che l'S9 praticamente lampeggia il coso del frequentimetro e dice che è una questione ottica nostra che lo vede lampeggiare così. No, non dica invece lì, è un problema di alimentazione, se l'ultimo decimale c'è. Io l'avevo risolto mettendo lì una resistenza all'interno, dietro, io me l'avevano risolto mettendo una resistenza per stabilizzare la tensione del frequenzimetro, capito? Non vi chiamo fesserito. Come ricordo adesso, se l'ho letto su quel coso, quel forum dove ci sono tutti i cibi, oppure se l'ho letto in altri forum, però ho letto così, infatti gli ho scritto che è un difetto dell'S9, quello lì, che non è, non è difetto, è una questione ottica nostra, non so come l'ha definito, con termini molto, diciamo, professionali, non so se fosse un tecnico che cosa e ha definito questa cosa qua, dice che lampeggia sempre, solo che quando secondo come lo guardi, in che posizione lo guardi, lampeggia di più, e sembra che anche il televisore dice che se lo guardi di lato lo vedi diversamente da come lo vedi di fronte. Ha fatto degli esempi particolari, capito? Bene, senza preamplificazione, ma bene qua. Giusto? Bene qua. Allora non c'è niente la radio, è un problema di microfono. E allora, come abbiamo detto poco fa, 12 watt sono troppo per l'ingresso all'alfalima, devi dargliene almeno la metà. Se vuoi che ti funzioni bene con l'alfalima qua. Però vedi, così, con 12 watt solo la radio, sta uscendo benissimo. Io perlomeno ti ascolto bene adesso, mentre prima non capivo un cacchio, capito? Cazzo, è la prima Mercedes che vedo con l'antenna, allora, dai. Una Mercedes, che Mercedes? No, la Mercedes, Gianni. No, c'è l'Audi A6, Gianni, adesso ho detto Mercedes. Allora l'ha cambiato, io sapevo che aveva la Mercedes, la Mercedes, K, K, K. E Ottavio sondaggio, più poca gara rimane. Avanti Riccardo, riprendi. Riprendo. Adesso comunque rispetto a prima che stavo ascoltando a Claudio, si sente che prima c'era un ronzio, c'era un'alternata, adesso è molto più pulito. È molto più pulito, sì. Va bene. Zippe. Ascoltati i messaggi. Adesso mi ascolto i messaggi che mi ha mandato. Vediamo un attimino. Riprendi il doppio room che mi ascolto questi messaggi. Eia. Kappa. E io Ottavio. Finirnia. Che da Ruggito, come ti sto arrivando di segnale di Amuros? Beh, non mi sente più Claudio. Claudio. Muerto. Avanti, Luca Flipper. Ti sento un po' saturino. Ho già... Sacro mi senti, boh. E vabbè, come ha attaccato l'alimentatore c'era inserita l'altra cosa. Dove era pizzato. Dovresti arrivarci anche tu a muro, cazzo, bro, non c'è bisogno di attaccare, io 9:20 io le arrivo. Lo so, ma tu sei più forte di me. Qua zitto, tu sei più in alto anche di me. Che la gara, 9:20 è un bel segnale. Non va a segnare sì. Io manco ci arrivo 9:20 da qua. Ah, te li arrivi con lo scala. Quando ti arrivate Claudio di Muros così, come stava provando adesso col baracchino? A me sta dicendo, Santiago Muros, non lo so, non l'ho guardato, ma penso 5. A me mi arriva 9:10 col baracchino, provo a fare a 9:20 abbondante, 9:25, quasi 30. Poi da qua 9:10. Ma forse anche di più. Quando attacca arriva a 9:05 anche. E quando attacca qua è... anche Pomponio. Kappa. Ah, so qua. Questa è una favola, non modulazione, questa è una favola. Alla grande, segnale 9:10 con 5 volte, 6. La radio è spettacolare. Alla grande, al 100%, molto molto meglio. Più chiara, più chiara e più bella. Confermate Gianni? Sì, è limpida, la notte è limpida. Questa è proprio limpida. Questo è veramente, sì, veramente molto molto bella la radio, quindi vedi che può uscire bene. Non ha niente a che fare con il Sommercamp, il Sommercamp va bene, era grande, però questa è molto più pulita la radio, molto più chiara, più pulita, amplificata, tonalità giuste, medio bassi, medio alti, ben corretta. Non so come ti ascolti Riccardo, ma qua stai arrivando veramente molto molto bene. Avanti Riccardo. Riccardo non c'è più. Riccardo! Cambio radio. C'è l'orecchio fine e il naso corto. Beh, sicuramente ti misura e ti dice, guarda, io ti ascolto benissimo, ti sto ascoltando col K, colonnina esterna, SP430, è veramente molto bella, molto chiara. Sì, per tu come lo senti? Tanto mi ha dato un fastidio che chiamano e non rispondete, la mazza che viene varia, ragazzi. Sì, ce l'ha al telefono, ce l'ha... Un attimino, torno subito. Poi mi stavo vedendo la giura. E sai cosa succede? Che a volte magari si chiude il telefono mentre state parlando, non può dire nulla e risponde al telefono e rimane, capito? È successo anche a me, Claudio, mentre stavo parlando ha scusato il telefono e non potevo dire torno subito perché stavate parlando voi. Vabbè. Comunque, vediamo un po' se c'è Riccardo di nuovo. Comunque, io ti consiglio di lasciare questo. Organizzati magari una spintarella, qualcosa, ma io non ne ho bisogno perché sei 9:10, quindi non c'è problema. Se ti ascoltano gli altri, per me questa modulazione è molto meglio del Sommercamp. Poi magari il Sommercamp con qualche correzione, cercando di darle qualche spintina in più, magari va bene lo stesso. Però questa a me piace di più. Vediamo un po' se è tornato Riccardo. Bravo! No, vabbè, voglio vedere se satura o se la modulazione rimane così com'è. Prova. No, non c'è problema, tanto siamo qua per questo, anche per capire quali sono le condizioni di una radio, di un amplificatore, vedere un po', capito? Va bene, va bene. Avanti, Flipper. Oh, Flipper. Non antipari. Doppio room. Ehi, dai, un secondo solo, sto rispondendo a un messaggio. Rispondi, rispondi, ci prego. Stazionale, vediamo se ne ho. Non più di tanto, magari se la fai sentire a Roberto ti misura e ti dice che sei sciatola, però io ti posso dire abbastanza chiara, dai. Guarda, io ti posso dare 5 perfetta, non ci sono problemi, la radio è pulita, buona, non c'è nessuna saturazione. Ecco, va veramente bene, 9,20 segnale, abbondante, sei salito di più 10. La radio è perfetta, con quella regolazione che hai del microfono, tieni quella, perché va veramente molto bene. Mi hanno chiamato, ma no, non l'avete preso. Sì, beh, senza un po' di dubbio. Sto regolando una cosa. Ecco qua. Senza un po' di dubbio ti dice che sei saturo, che non va bene, però io ti posso garantire che io ti ascolto magnificamente bene. Ottimo. Vediamo un po' se c'è Riccardo, avanti Riccardo. No, non c'è, sicuramente sta studiando, non so cosa stia facendo, va bene. Doppio room, al telefono? Sì, io sì. Quindi già andiamo al telefono, Flipper. Certo, chi va a mangiare a destra, a sinistra, boh, chi si allontana, chi se la prende nel QSO. Vabbè, ok, comunque. Ottimo per la truppa, riprendi qua, scappa, sciatto un attimo di bianco, no, le radio vanno sempre accese, io mi sono l'inuite, quello che mi ha dato tu, lo stesso lo accendo, ogni tanto mi faccio una chiacchierata anche con quello a livello locale, però purtroppo devo accendere il K, se non accendo il K si rovina, e quindi quelli già rimangono buoni dove sono, però il K bisogna usarli, lo sai com'è la situazione, e quindi è un casino, vabbè, però Linux funziona benissimo, c'è l'MB più 5, lo stesso anche lì, con un 747 collegato, e funziona bene, dai sui 70-80 watt, quando lo uso, lo tengo sempre così, va bene, va bene. Avanti Gianni, finita di messaggiare. Rientrati. Ah? Rientrato. Sì, rientrato, devo fare peggio, riprendi, c'è Claudio Ramuro, Gianni Doppio Room e poi gli altri si sono un po' allontanati, riprendi. Sì, ciao. Nel percorso, cioè nella discesa dal canale di sotto al canale sotto, ho trovato uno che sta arrivando veramente forte in FM. Deve essere qualche russo siberiano, chissà dove non hanno. Bella questa preparazione, sempre a QRM, veramente bella. Riprendi Gianni. Sono un attimo al telefono, scusa. Riprendi qua, riprendi. Sì, me l'ha detto, non dovevo procurare un altro, infatti stavo pensando di invertire i frontalini, no, per la scritta, ti ricordi. Ho detto, non lascia stare, no, non mi interessa, no, non c'è nessun problema. A me l'importante è il funzionamento, poi se non c'è la scritta di assicurare che mi innoite, no, non c'è problema. Infatti mi ha detto che chiedeva, se ricordavo, aveva comprato i trasferibili per attaccare la scritta, capito? E niente, ma non vanno anche questa qua, le manca solo la scritta, ma no, non è un problema, però è molto funzionante, perfetta, quindi non c'è bisogno di fare tanto casino. Va benissimo alla grande, figurati. Avanti Gianfra. Sì, cosa volevo dire? Ah, un po' di pubblicità, devo fare pubblicità. Chi è interessato, sto dando un ICR71E, se qualcuno è interessato. Il ricevitore? Lo conosci, no? Quello beh, con quello Smith che magari ce li avessi sugli altri apparati. Quelli bianchi, te li ricordi, grande, ma proprio grande sul segno, come come si dice, analogico, proprio a lancetta. Guarda, io ho tutte le radio già fa analogica, non parlare mai digitale perché solo il barret è digitale. Capisco a LED, diciamo, chiamiamo digitale, io ho il VU base 275H, il 475H, il 780 della cable, sono tutti in base mie. Il 756 della Incom, ho venduto l'FT1200 perché era tutto digitale, non mi piaceva, ho tutte le radio analogiche, tutte, io voglio vedere lo smitter che si muove, a me questi LED non è che mi ispirano molta fiducia, quindi sono solidale con te, guarda, a me piace l'analogico come segnale, se avessero fatto tutte le radio ad un certo livello alto, altissimo, più alto che voi, ma avessero lasciato gli smitter come erano prima, è una canonata, a me questi smitter a LED non mi piacciono, assolutamente no, vai qua. E infatti me l'ha detto, ne abbiamo parlato, me l'ha detto, mi ha detto anche appena ci ho detto che mi ha fatto quello là, mi ha detto mi piace un bel quel format, capito? Mi ha detto come voi già, non avere nessun problema con me, problemi con me non ce ne sono. Quella funziona e va bene, se potrà voi riprendere e mi ridai l'altra, a me non mi interessa, non ce n'è problema qua, figurati. Rispetto a me quando la radio funziona e va bene, non è la scritta che fa funzionare la radio, quindi capito, non c'è problema, quindi va bene così, se poi lui decide di fare quello che vuole fare, salgo una mattina, gliela lascio e fa quello che deve fare, non ce n'è problema, una sera ci vediamo, insomma, non è un problema. Non ti preoccupare che problemi non ce ne sono, è importante che la radio funzioni bene, perché funziona veramente bene. Doppio room, vuoi riprendere? O stai ancora al telefono? È ancora al telefono. Vediamo un po' se Riccardo è rientrato. Riccardo? No, Riccardo è impegnato con i compiti. Riprendi Gianfra FGR, Riccardo. Sì, ok. Adesso ho visto una cosa interessante, poi ti dico. Allora, no, in effetti io sto dando proprio quello che c'ha lo smitter analogico, perché c'ha la sua età oramai, non può essere al passo con quello che piace a me. Mentre parlavi, Claudio, ho visto che c'è stata una sventagliata, siccome questo che sto usando c'ha uno schermo direttamente, no? E quindi sì, vedi il segnale che è il solito a LED, però vedi proprio la modulazione e quello che succede in un certo lasso di tempo in tutta la banda. E ho visto che anche qua è comparso un segnale che galoppava da giù verso su, che è il tipico segnale radar che utilizzano per controllo, eccetera. Ha camminato dal basso verso l'alto, adesso sarà già a 30 mega probabilmente, ed è una cosa strana perché si vede spesso in HF, però quasi non l'avevo mai visto, una cosa interessante. Avanti Claudio. No, non è un problema di Claudio, adesso è sceso mentre parlavi tu, è sceso perché sono segnali particolari che prendono tanti, proprio porzioni di banda intera. Adesso come è salito o risceso? È formidabile. Riprendi Claudio. No, ma infatti no. Ho capito cosa stavi dicendo. L'ho notato anch'io quando però ce l'ha esatto rispetto inserito, quindi il 756, perché con questa radio non c'hanno niente. Mi accorgo anch'io, a volte ci sono questi segnali proprio tipo scariche che tu vedi l'analizzatore che sale all'impicco, poi scende piano piano e va a calare, non capisco cosa sia, non capisco cosa sia, no vabbè, questo è il 430, quindi era tanto come lo usavo, addirittura l'ho dovuto cambiare anche la lampadina, si era fulminata la lampadina dello strumento e gli ho messo un LED con la resistenza così bianco, così non mi fotte più, perché era ancora in originale. Va bene, e cosa stavo dicendo? Ah, dimmi Gianfra, ma com'è grande, come un 140, come un veicolare, come questo CR71, non me lo ricordo. No, dunque, è largo quanto il TS2000, sicuramente te lo ricordi, è un pochino più alto, quindi è pesa un raio veramente, è proprio una radio, nel senso più, è un ricevitore. La modulazione è quella sempre calda, quella che può starci ore e ore, fatto per il far conto. Un apparato degli anni 80, credo, però robustissimo, veramente un ottimo apparato. Io volevo dare per prendere quello di un'altra razza che è più moderno, ovviamente, per le mie esigenze, ci vuole roba recente. Volevo anche prendere quello che c'è tu, però è nuovo, no? Il modello, due modelli dopo, quello che c'è tu, ma poi io l'ho visto il prezzo e onestamente è pure dalla mia portata. Ascolta, vabbè, se mi dici quanto lo vuoi, fammi un colpo di bassa e ci mettiamo d'accordo, vediamo un po'. Può essere interessante, capito? Può essere interessante, o qualcosa sotto mano che può interessarti. Cavolo, ha dato una spazzolata, con un segnale abbastanza forte adesso di nuovo. È sicuramente un radar questo affare. È un radar, non è a forma di scarica, è un segnale molto stretto sinusoidale che cammina. C'è un tempo molto molto preciso di scansione. Ma se vuoi dopo ti chiamo e ti dico un po', ovviamente lo provi perché già lo sai come sono fatto, no? Lo provi, lo senti, insomma, vedi un pochino. Sì, forse qualcuno sotto non ho capito. Vabbè, mi chiami e mi dici, per non stare qua, mi dici cosa ne vuoi, cosa vuoi realizzare, perché me l'hanno chiesto, invece di fuori, capito? Mi chiami e me lo dici. Riprendi, Claudio. Claudio, da dov'è? Da dov'è Claudio? Da Muros. Arriva molto molto basso, nonostante sia in vista ottica per me. Io sto modulando da Prato Comunale, quella zona lì, e c'ho in vista anche la galleria di Codo, forse, ma c'è qualche collina, però un S3 è un po' basso, Io sto andando con circa 3 watt modulati, quindi ti puoi immaginare che potenza. Cosa c'entra l'apparato? C'entra la potenza in uscita, ripeto, 3 watt sotto un'antenna alta, la Game Master, non so se la conosci, che è alta comunque quasi all'altezza d'albero, diciamo che sono una 10-15 metri, dai. Ma guarda, non ce n'è bisogno, fino a S2 io sento bene, anche S1, perché questo apparato studia il suo RM. Non arriva qua, non arriva! Ciao a tutti, non entro perché intanto non arriva lui e non voglio dare fastidio, dai, continuate. No, ma dai, giusto. Ma ci arriva qui, ma quando è che si sistemerà l'antenna questo ragazzo, non lo so io. Boh, vabbè, comunque, continuate voi, a me non mi va, quando io non sento qualcuno, tutti quanti, a me mi dà fastidio. Guardate qua. Sì, aspetta che adesso attacca, da un po' di... Sì, ho visto lì. Adesso attacca un po' di watt, vediamo se riesci ad ascoltarlo. Io ecco qua e siamo a tiro di schioppo, qui arriva benissimo, 9:10. È un po' Claudio, dai grazie che Giulio non ti ascolta, prova. Aspetta, starà collegando, vediamo un po'. Avanti, già fra, avanti, già rientra subito qua. Non ha troppo di spazzolate adatto con l'attrezzo. Vorrei vedere fin dove arriva, però dovrei attaccare un altro ricevitore ancora. Insolito così frequente, questa è una delle prime volte che vedo questo tipo di segnali in questa banda. E guarda, da dove sei tu è molto poco il segnale che ricevi. Io penso, dunque, Muro rispetto a Cargeri ad esempio dovrebbe essere molto più rivolto verso Sassari. Cargeri è proprio fa quella specie di curva, no? Che lo porta quasi dietro la montagna, quindi messo 400 watt. Sì, ti mando avanti Giulio subito. Giulio, l'hai sentito ora? Sì, scusa un attimo, grazie. Sì, sono passato un PMR io, tanto non va bene, non mi va bene a me qua. Arriva male a me, non... Continuate, non è un problema, dai, scusate l'interruzione. Ok, ma va bene Giulio, buona serata comunque. Riprendi Claudio, poi ci dirà l'altro Claudio se lo riceve qua Giulio. Sì, beh, Claudio ha risposto a Giulio, gli ha detto che arriva più di 9 a lui, però io non posso dire niente perché adesso in questo passaggio è 9 più 25, poco fa mi arrivava 9 e 10, quindi io lo sento perché siamo al tiro di schioppo, cioè praticamente ci vediamo, dai, non c'è problema. Chiamami già fra dopo e dimmi cosa vuoi realizzare di quel ricevitore. E vediamo un po' di farlo fuori, capito? Perché me l'hanno chiesto, proprio la settimana scorsa me l'hanno chiesto se c'era un ricevitore e ho detto di no. Non lo sapevo, a saperlo, a me mi viene quello di improvviso, questi attacchi di vendita. Però Claudio, ti dico anche che non c'è corrispondenza tra la potenza che lui emette e quello che riceve. È quello che trasmette, perché potenza del genere è troppo basso per essere reale, capito? A meno che non ci abbia sballato tutto quanto, allora non è giusto. Se lo sente 9 dovrebbe anche arrivare 9 a parità di potenza, mentre invece non è esattamente lui, quindi quello lì dipende dall'antenna sicuramente. Non sta funzionando, a dov'è? Riprendi Muro. Vai. Capo. Claudio, però io adesso ti sto sentendo Sandro, non Claudio Manna, no Claudio Sparvero, Claudio Chiodaruginizio, ti sento un po' saturo adesso. Così va benissimo, lascialo così che va bene, arrivi forte, arrivi bello chiaro, dai. Io come ti sto arrivando di segnale con questo apparato, sono con 5 watt, lo stesso segnale di Luca, dai. Aspetta un attimino. Sì, claro, non lo tirare più di 120 watt, perché altrimenti distorce. 120 watt sei fortissimo e la radio è bellissima, capito? No, 120 watt sei fortissimo, qua sei 9 più 30, segnale fortissimo, la radio è bellissima, non satura, perfetta. Se invece vai a sollevare, vedi anche da Gianni che è lontananza, vai in distorsione, quindi segnati questi particolari perché sono molto importanti. 120 watt e ti ascoltano da tutte le parti, non c'è problema. Vediamo Gianni cosa vuole provare. Voglio provare Claudio adesso come arrivo in questa posizione qua, come sto arrivando. Sì, a capo, dai. Sto parlando anche lontano dal microfono perché sono coricato. Sono sdraiato e ho il microfono dal tavolo e sto parlando un po' lontano. Sì, va bene, va benissimo Claudio, mi ha dato soddisfazione, dai. Già va bene. Guarda, se mi vuoi dare qualche definizione in più non lo so, ma mi va bene così. Capo, la radio era perfetta, sì. Sì, adesso va bene, ho staccato tutto. Kappa, andare, chi è rimasto? Marco, è entrato No, già, non l'ho sentito Marco io, niente. Non l'ho sentito assolutamente. Quante volte stavi usando, Gianni, 80? Che? 747. E 80 watt come era il mio. Io ce l'ho sull'inuito, lo accendo solo quando a volte c'è qualcuno fuori propagazione, là ce no. Non è che ne abbia questa grande necessità, io sono con 5, 10, 10, 15 watt di portante, 25 modulati. Ma ecco, lo interessa è la portante. No, un ultimo segnale Claudio, 9, 25, quasi 30 e la radio è perfettissima, quindi tieniti questi livelli, 120 watt, questo accordo così è fenomenale, nessuno ti può dire niente. Vai Gianfranco. Sì Claudio, io Gianfranco dove l'hai lasciato? A piedi l'hai lasciato. No, a Gianfranco stai dicendo, a Marco a piedi l'hai lasciato, dove si è imboscato? No, sta poco bene e è andato a mangiare, capito, per avere un po' più di endorfine adesso. Lo so, io ogni tanto mi succede. Va bene, KK, dai. Adesso attacchiamo un altro apparecchio, così li faccio girare tutti stasera e non se ne parla più. Va bene, sì, Gianfranco, aspetta un'altra chiamata, dai, così io mi dai quell'info e vediamo un po' di fare l'operazione. Avanti, Clare, prendi. Vabbè, ma loro sono anche in un'altra posizione, anche a Gianni sicuramente il rapporto che gli hai dato tu è superiore a quello che ti dà lui, perché la tua zona è un po' coperta, riesci a fare scala di ciocca, eccetera, quindi è già troppo quello che stai facendo. A me non mi crei problemi, perché, ripeto, hai un ottimo segnale, sei quasi numero più 30, quindi non ci sono problemi. Io non so manco come ti arrivo a questi livelli, ma le prove le abbiamo già fatte noi, quindi non ho bisogno di chiedere controlli. Siamo a vista ottica, quindi arrivi molto forte, capito? Qua il segnale liscio tuo è 9-10, mentre dagli altri sei basso, proprio perché abbiamo vista ottica, quindi non c'è problema. Ok, avanti Gianni, riprendi. Ho attaccato il signor Magnum. Signor Magnum, va bene. Ottima radio anche questa, non ci sono problemi, già c'è tutta radio buona e tutto, quindi va bene. Io è che non ne ho le radio, siamo avuto tutto in dinamo. Ma di antenne cosa ti è rimasta? Quella scaletta e basta? Scaletta? No, non è una scaletta la mia è un dipolo ragno che mi ha costruito Marco Scorpio. Fa 15, 20 e 40, quella, adesso gli ho aggiunto anche gli 80, quindi fa 15, 20, 40 e 80, capito? E basta. C'ho quella, la Mantova e la bibanda per le vuole, ho fatto pulizia, un bellissimo lavoro alla grande, abbiamo fatto veramente tutto in ordine. Adesso bevo praticamente il traliccio che c'era, il sistema così chiamato, perché il mio non è un traliccio, è un sistema a parete, che l'ho comprato da Fabrizio. Quel sistema a parete che adesso è libero, adesso trasferisco la Mantova, la tiro su 8 metri, sono 2, 4, 6 e 8, sono 4 elementi da 2 metri l'uno. 8 metri, uso lo stesso Bicon, quindi tiranti in Bicon, che ce ne vanno 3 sopra e 3 sotto, e rimane a 8 metri di altezza. Dica, che bisogno c'è di sollevarla? Sei abbastanza in alto, tu ne metti 2 metri la stessa cosa. Ui. Secondo me non ti conviene, poi stai con la paranoia quando c'è il vento ti tira rampa. Invece in questa maniera, non lo so, vedi tu. È un bel male che viene, di là Luca Fitta, a buttarne quell'antenna, lo aspetta in due la Mantova, che è molto difficile, ma buttarne al sistema non penso proprio, c'è una direttiva agganciata. Capito? Aspetta che risponda Gianfranco, riprendi qua, secondo di bianco. Sì, aspetta, grazie del controllo, ma non l'avevo dubbio perché l'avevamo già fatto comunque. Riprendi Gianni. Via, ma va bene, va benissimo. Ma io non alzeri, Clark, fossi stato te non l'avrei alzata, sei abbastanza in alto, cosa ti dà fuori di alzarla? Solo per occupare quel sistema sarebbe. Gianfra che ha il telefono con Claudio. Claudio chiodo arrugginito, avanti. Ma Riccardino non è rientrato? Certo. No, ma glielo ho detto anch'io, prima il dovere e poi il piacere. È meglio che spenga l'apparato, studi e poi entri quando può entrare. Non è che lui deve essere preso dall'apparecchio e non studia. Dai. Anda bene. Meglio così, dai. Che sei soddisfatto che c'è questi nuovi apparecchi adesso. Almeno esci bene, tranquillo. Quindi il Midland l'hai dato, non ti piaceva più. Ti piaceva così tanto il Midland. E quando fa così controlla le connessioni che ci sono nello spinotto, perché a volte tocca una con l'altra e non ti fa uscire. L'ha fatta anche a me ieri in un apparato. Stavo impazzendo. c'era tutto qua, andava bene. Poi sono andato sullo spinotto, e c'era un filettino della massa, ma un filettino fino fino fino che toccava l'altro contatto. E ti faceva girare i canali da solo, capito? Girava il canale, tutta la giura faceva. E beh, bisogna averli tutti e due, ma quello lì in macchina, se tu li metti il doppio modulatore, quello lì in macchina, non sai come poppa. Ti sentono da tutte le parti, magari non puoi arrivare di segnale, ma di radio ti sentono tutti. Guarda, io non sarà manco un mese che l'ho venduta tutta quella roba, c'avevo un Alan 48 Gold che ho comprato, che era già fatto dalla fabbrica con doppio modulatore, tutto quanto c'aveva. La camera eco, proprio fatto dalla fabbrica, arrivato da fuori, non dall'Italia. E mi è durato da Natale a Santo Stefano, si è praticamente bruciato, quindi l'ho smontato, tutti i pezzi che mi servivano, tra cui avevo smontato le manopole, la forma di frontalino, che era illuminato di blu, insomma tutte le parti che servivano, i cosi, i coperchi, e ho venduto tutto da poco, ho venduto tutto quanto a un amico, dai, che me l'ha chiesto e l'ho dato. Chi è rimasto qua? Claudio, ci sei? Telefono? Eccomi già, sono qua. Ma tra 5 minuti e poi mi preparo per andare a portare il cane. Che ora è? 7:15. Kappa. Io lo porto presto perché poi io fa buio, capito? Non vedo manco se fai bisogno di bene, eccetera. No, io sempre alle 8 lo porto, dalle 8 alle 8 e mezza, vabbè, ieri l'ho portato tardi perché stavo facendo quel microfono, ma fatici di gabbo, dovevo stare a provare, entrare farlo in cucina, poi entrare in camera da letto a provarlo, insomma, sono uscito un po' di gabbo, potremmo benissimo mettere la Turbo 2001 attaccata al frigorifero e provarlo in cucina direttamente, ci ho pensato dopo. Ascolta, ti faccio sentire un baracco nuovo, dai. Mi ha fatto le connessioni della MP5 Lucca, è un 260 canali. A vedere se ti piace la modulazione. Aspetta, il comodo. Che apparecchio è? Cosa già? Ho detto che apparecchio è? Questo è Claudio, lo stai abbassando di radio, esci prima a forza e poi si abbassa la modulazione. Beh, che è successo qua? Ora. Sto uscendo? Sì, adesso sì. Perché non lo sai che te ne vai. Ora. Sto uscendo? Sì, ma te l'ha rifatto. Lo sta facendo anche adesso. Controlla il PTT che magari c'ha polvere. Mettili un po' di spray. Ora. Adesso va bene. Kappa. Stavo dicendo, questo è praticamente un Simba SSB50 base con l'MB più 5. Va bene del radio? Sì, già va bene. Già va bene. È diversa la tua solita, ma già va bene. Già va bene. Va bene, va bene. Bene, va bene. Però questo fatto che ti manca la modulazione dovrebbe essere un po' di polverina forse nel PTT. Vai per sfruttare un po' di spray per contatti. Occhio che non te ne esca il tastino se non ti va a dipingere un gabbo. C'ha dei cosi del tipo, già lo sai com'è, no? Per bloccare il tasto c'ha tipo delle cozze tipo quelle di legno, no? Però servono per bloccare quello. Quando di Nivara Nighisci comincia a finire tempo a punirli, guarda, metti una cosa te ne scende l'altra. L'altra volta mi è successo a me, stavo per perdere la pazienza. Ho comprato un nuovo MB5, ho già avevo il volume a zero, Avevo il volume a zero, forse come mi avvicinavo e come mi allontanavo, non mi sentivi. Di nuovo il microfono, mi ha messo il connettore Luca, capito? Va bene. Ebbene, la modulazione certo non è del K, però mi hanno detto che è bella corposa, va bene. No, già va bene. K, lascialo questo qui, così almeno si gira un po'. Com'è questo Simba? Fammelo vedere. È tipo... Cosa ti posso dire? Come tipo non riesco a spiegartelo. Claudio, io sono sincero, ti dico le cose come sono. Allora, non è questione di allontanarti e avvicinarti, perché gracchia e poi ti manca la modulazione, l'ha fatta anche adesso. Oh, cazzo. Allora, il connettore del microfono, vediamo se lo fa di nuovo. Ora. Cazzo, vai in affanculo. Aspetta, non lo sta facendo adesso, no? Adesso non lo sta facendo. Forse era il connettore del microfono staccato. Mezzo svizzato era brutto. No, non lo sta facendo adesso, ma poi il connettore del microfono col... col microfono da tavolo che tiri, che faccia. Con il microfono da palmo è possibile che sia il connettore, ma con quello da tavolo non è che lo tiri, no. È nuovo il microfono, te l'ho detto, mi ha fatto le connessioni Luca. Sì, ma è possibile anche che magari a me mi stava facendo perdere la testa un filino nel Midland. Praticamente giravano i canali da soli, se ne andavano, camminavano da soli, e tanto sa che sta succedendo. Ho aperto il connettore ed era un filino che toccava la massa, un filino proprio fino, cioè il filino della massa che toccava l'altro connettore. Tu stavi parlando, poi ho fatto e si è sentito più basso, capito? Ma adesso in questo passaggio non lo sto facendo, no? Adesso non lo sto più facendo. Vabbè, sarà... Comunque io lo controllo ormai, perché cazzo, il microfono è nuovo, non deve qua a capo io. Non so se c'è qualcuno all'ascolto che ti ha sentito per dirtelo, però è così, e credimi che è così. Solo te c'è tu, vuol dire che è così, no? Non c'è problema, noi dobbiamo chiedere agli altri, se lo stai dicendo tu, va bene così. Ok, comunque, mi hanno detto che la modulazione è buona, che si assomiglia molto alla mia, è abbastanza corposa, abbastanza alta, quindi già va bene. Così. Se c'è qualche problema io te lo dico, no. Poi vedi tu, ma penso che sia più che altro dal PT, magari anche se è nuovo, ha abitato un bivaro, e cosa vuol dire? Ha preso polvere, eccetera. Infatti sto controllando, c'è questo. Vediamo un po' se effettivamente è il PDT o se c'è qualche problema da qualche altra parte. Vabbè, vediamolo. Ok, comunque già c'è una buona ricezione, dai, l'importante è quello. Ok, già, dai, ti lascio in compagnia di Claudio e così io mi preparo, altrimenti è un casino, va bene? Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Non lo sto facendo? No, no, adesso no, no, adesso no. Va bene, dai, siamo qua, siamo qua. Io se alle 8 ci sono, poi vado anch'io a portare giù il cane. Claudio, avanti! Claudio. Salutamolo tu a Claudio, deve essere sta parlando con Ottavio. Salutamolo tu, se ci siete, ripeto, ci sentiamo dopo. Ok, ciao. Eia, ma tu gli hai fatto qualche lavoretta a quel microfono oppure l'hai lasciato normale? Normale questo, normalissimo, nuovo, non ho manco cambiato niente. È una bella modulazione, bella limpida. E da voi gli americani dicono che non serve nel BBC, altro che non serve, è un bel microfono, ti fa la voce come sei in persona, così. Sì, sì, ma infatti mi sono ascoltato e va bene, con la modulazione va molto bene. Ok, già, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Vado a sistemarmi e poi rientro. A dopo, ciao. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. Lì ci è rimasto qualcuno. Attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno in ascolto, Brecco, K. Bella mossa, gatta.